Benvenuti. Oggi facciamo un approfondimento su un tema, davvero attuale: arte digitale e intelligenza artificiale. Sì, un terreno che cambia quasi ogni giorno. Esatto. Partiremo dalle idee di Walter Benjamin sulla riproducibilità tecnica, ma per vedere come, diciamo, l'oggi stravolge un po' tutto. La nostra traccia è un saggio di Giacomo Sottocasa. La riproducibilità dell'opera d'arte nell'epoca dell'avvento dell'intelligenza artificiale. Un titolo che dice già molto. Eh già. E il punto è proprio capire concetti come unicità, autenticità, la famosa aura. Che fine fanno? E soprattutto, cosa resta di veramente originale? Bella domanda. Allora, partiamo proprio da Benjamin, per rinfrescarci la memoria. L'aura, l'hic et nunc, il qui e ora. Cosa intendeva lui, in breve? Beh, per Benjamin l'aura era quell'essenza unica, irripetibile, legata proprio alla fisicità dell'opera, la sua storia, il fatto che fosse lì, in quel momento, in quel luogo. Ok. Era quella cosa che la riproduzione meccanica, pensa alla fotografia, al cinema, iniziava a far perdere. Ma il digitale, ecco, fa un salto ulteriore. In che senso? Non si limita a copiare. Praticamente smaterializza l'opera. La trasforma in dati, in una sequenza di 0 e 1. Smaterializzazione? Quindi addio sostanza fisica. Diventa informazione pura, replicabile all'infinito. Esattamente. E qui casca l'asino, per così dire. L'impatto sull'autenticità è... enorme, immagino. Una crisi. Sì, una crisi profonda. Non è solo l'aura di Benjamin che se ne va. È l'idea stessa di originale che inizia a traballare seriamente. Perché se ogni copia è perfetta e l'IA crea opere già digitali... senza un originale fisico di partenza, già. Cosa garantisce l'unicità? Il concetto classico va in tilt. Si è tentato, no? Con gli NFT, i non-fungible token. L'idea di ridare unicità con la blockchain. Sì, è un tentativo interessante, anche se... paradossale. Decisamente. L'unicità non sta più nella materia, ma in un codice digitale. Un certificato per un file che in sé resta copiabile infinite volte. Quindi l'aura diventa un'etichetta tech. In un certo senso. Un garante di autenticità e proprietà, che però, attenzione, rischia di scollare il valore culturale da quello economico o di status. Certo, ma l'IA non è solo riproduzione, fa anche crea, Dall'E, Midjourney. Esatto, e qui le cose si complicano ancora. Il ruolo dell'artista come cambia? Bella domanda. Spesso diventa più un curatore, un selezionatore. Uno che guida l'algoritmo, che sceglie. Si parla di co-creazione uomo-macchina. Proprio così. E l'autorialità si frammenta. Chi è l'autore? L'umano che scrive il prompt? L'algoritmo? Chi l'ha programmato? Non è chiaro. E questo ci riporta dritti alla domanda sull'originalità. Un'opera fatta da un algoritmo, magari bellissima, ma senza intenzione umana. È originale? È un'originalità diversa, direi. Tecnica, magari. Nasce dalla ricombinazione di dati esistenti in modi nuovi, a volte sorprendenti. Però manca l'esperienza soggettiva, l'ispirazione come la intendiamo noi, il gesto creativo, sai? E poi la rarità. Qui scompare. L'IA può produrre all'infinito. Quindi è più una simulazione di creatività. Potremmo vederla così. Tecnicamente magari originale, ma concettualmente è un'altra cosa. E l'aura di Benjamin? Con l'IA che crea senza gesto umano, sembra proprio finita, definitivamente. Quella legata all'oggetto fisico e alla sua storia, sì, sembra dissolversi. Però. Però. Però potremmo pensare a una nuova forma di aura. O forse dovremmo chiamarla in un altro modo. Non legata all'oggetto, ma all'esperienza. Cioè? L'opera digitale, magari interattiva, modificabile, potrebbe offrire a ciascuno un'interazione unica, irripetibile. L'unicità si sposterebbe lì, nell'incontro soggettivo. Interessante questa idea. Un'aura nell'esperienza personale. Però c'è un ma. Certo. La fruizione oggi è spesso l'opposto. Frammentata, veloce, nel flusso dei social. Guidata da algoritmi che premiano il click facile, non la profondità. Non si rischia di perdere anche questa unicità potenziale? È il grande contrasto, sì. La tecnologia apre porte a esperienze uniche, ma le piattaforme spingono spesso verso un consumo più omologato o superficiale. Giusto. Allora, ricapitolando un attimo. Siamo partiti dall'aura persa con la riproduzione, poi la crisi dell'originale con la smaterializzazione. Gli NFT come tentativo di risposta tecnologica. L'IA che diventa co-creatore, sfidando l'autore umano e creando un'originalità algoritmica. Diversa? Sì. E infine questa ipotesi, affascinante, di un'unicità nuova, legata all'esperienza personale interattiva. Esatto. E tutto questo ci lascia con una riflessione forse un po' scomoda. Sentiamo. Se l'arte e come la viviamo diventano sempre più personali, filtrate da algoritmi che ci danno quello che già ci piace, che spazio resta per l'arte che ci sfida, che ci disturba, che ci fa vedere le cose in modo diverso? Rischiamo di chiuderci in bolle. Esatto. Riuscirà l'arte del futuro, digitale, magari fatta con gli A, ad allargare i nostri orizzonti o finirà per confermarci nelle nostre comode, ma forse limitate certezze estetiche? Una domanda aperta, credo.